Royal Chalet sopra nuda stamattina, mentre lui cantava con Melora, sono venuta a me cercare per famuina e per ti rubare l'argentellora. E sono venuta roce roce chiano chiano, e mia nonna favola per chi lontana, mai non tengo più, ma tengo sole mano, mai non tengo più, ma tengo sole mano. E che le buono sole se fa yanto, come una luna senza rosa. Stoke.